peanut. Salt peanut, salt peanut. Salt peanut, salt peanut. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi uno sguardo in Europa e in due realtà particolari. Sono due situazioni che verranno prese un po' in esame. Intanto la prima è ormai tradizionale, che è quella scandinava, soprattutto della Norvegia. E, il musicista interessante secondo me, ma è un po' una situazione interessante questa della Norvegia, che tutto sommato ha un numero di musicisti molto consistente, vista la dimensione del paese, e di alta qualità, anche, come dire, evidentemente una maturazione piuttosto sollecitata anche da parte delle condizioni che possono essere proposte in Norvegia. E poi comunque i musicisti hanno la possibilità di confrontarsi con molte situazioni diverse. Sono diversi i gruppi che si formano, i progetti che si formano un po' a nome di uno, un po' a nome di un altro, sia all'interno del mondo scandinavo, oltre che norvegese, sia anche a livello internazionale. Per esempio, un musicista che secondo me è uno dei più interessanti, ne abbiamo già parlato, Salpinaz, si tratta di Ketil Moster, è sassofonista, sia al baritono che al tenore, ha avuto molte, pur essendo piuttosto giovane, ma insomma molte frequentazioni, ha avuto occasioni appunto di incisioni le più diverse, spesso nell'etichetta Clean Feed, ma anche in altre, nella Rune Gramophone. Qui lo vediamo alla guida di un progetto chiamato The End, la fine, in una collaborazione con Matt Gustafsson, svedese, ma molto attivo proprio negli incroci e nelle collaborazioni con altri. Poi si aggiungono Sofia Jernburg alla voce, Anders Ana alla chitarra baritono, e poi alla percussioni Greg Saunier, percussioni e voce. Il brano, questo è un disco intitolato appunto dal progetto The End, anzi il titolo quasi non ve lo dico perché tanto è in norvegese, già non capisco neanche quello che dico, ma insomma. Il brano che ho scelto è una sorta di citazione, perlomeno emotiva, da un'esperienza classica importante della storia del jazz, che ha segnato forse anche una sorta di crinale, di punto di svolta fondamentale, che è stata la Freedom Now Suite di Max Roach. Il famoso brano, probabilmente il più conosciuto, il più particolare, era il Triptych, questo percorso per voce di Abby Lincoln, drammatica, recitata, tra l'altro Abby Lincoln anche ottima attrice, candidata a Oscar per film, e la batteria e le percussioni di Max Roach, diviso in tre momenti: un momento dedicato più alla preghiera, poi alla rabbia e poi alla pacificazione. È un percorso abbastanza analogo, più lungo, perché dura quasi un quarto d'ora questo brano, che però vede questa sorta di traccia emotiva. Naturalmente la timbrica orchestrale, la timbrica che il gruppo, come dire, utilizzando elettronica, suscita è più aggiornata, più legata ai tempi attuali, e naturalmente anche la voce della Sofia Jornberg non è certo quella di di Abby Lincoln, però comunque il risultato emotivamente a mio avviso è di alto livello. Just a thought. Just a thought. In a field, one thought. How did it all happen? Really, come on. Up and out.

esperienze molto diverse e quella invece di un giovane sassofonista olandese, quindi ci spostiamo in Olanda, con l'attenzione in Olanda. Interessante, usa un linguaggio interessante, riprende la tradizione classica del sax contralto, può ricordare Phil Wood, può ricordare esperienze di questo tipo, ma anche passando poi per musicisti come Dave Binney, cioè queste estremizzazioni, per esempio nell'utilizzo delle scale armoniche, perché poi comunque si muove su un piano armonico non modale. E si tratta di Ben Van Gelder, un ragazzo che ha una trentina d'anni attualmente. E, diciamo che ha cominciato però già molte esperienze al suo attivo. Ha cominciato già diversi anni fa, 22 anni, ha inciso un disco che ha avuto delle qualità, intitolato Frame of Reference. Ascoltiamo un brano preso da questo disco, dove Ben Van Gelder suona il sax naturalmente, poi troviamo anche altri nomi importanti come Aaron Parks al pianoforte, ecco, Rick Rosato al contrabbasso e vabbè. E poi anche come ospite in alcuni brani Ambrosa Kimuzir alla tromba, quindi fa parte dell'ambiente mainstream che in Olanda appunto ha il suo spazio. Non c'è soltanto, diciamo, l'avanguardia, è un territorio piuttosto ricco di stimoli anche più diversi. Ascoltiamo un brano preso da questo disco. Thank you. sassofonista, questo era Frame of Reference, un disco uscito nel 2011, e lui aveva poco più di 20 anni. Non è che mi abbia colpito particolarmente il suo modo di suonare, cioè il suo fraseggio, le sue capacità indubbiamente adeguate di sassofonista, anche piuttosto bravo, ma è questa originalità nella composizione. Indubbiamente il brano che abbiamo ascoltato è piuttosto maturo da un punto di vista compositivo. Recentemente è uscito un progetto, un lavoro, il risultato di un progetto che vede un incontro che è già avvenuto in più occasioni, di una collaborazione con un altro musicista olandese, che si tratta di Rainer Bass, un chitarrista. Quindi Ben Van Gelder al sax e Rainer Bass alla chitarra, che hanno composto e dato vita a un progetto in collaborazione con la Metropole Orchestra. La Metropole Orchestra, che probabilmente non è così tanto conosciuta, un'orchestra olandese a sede artistica e tecnicamente risiede ad Amsterdam, ed è una grande orchestra, un'orchestra composta da più di 50 elementi, quindi un'orchestra che ha una sorta di struttura di tipo sinfonico. Tra l'altro poi ha la possibilità di aggiungere ulteriori elementi, quindi si tratta di una formazione con una base di strumenti a fiato molto ricca e molto solida, e anche naturalmente di archi. Quindi è nata nel 1945, quindi subito alla fine della guerra, quindi ha già una tradizione notevole. È stata guidata da molti musicisti sia olandesi che internazionali, anche di Vince Mendoza, per esempio, un musicista che l'ha pochi anni fa ha avuto per un quinquennio più o meno la gestione di questa orchestra. Sono di alto livello. Il risultato è sicuramente un'orchestra che è in grado di sostenere i musicisti anche più esigenti. Il risultato, appunto, questo progetto che ha visto appunto le composizioni di Rainer Bass e Ben Van Gelder, è sicuramente un lavoro ben riuscito, uscito recentemente per una etichetta minore, la Basta. Però anche direi che ho letto in riviste internazionali che l'hanno notata come un ottimo risultato. Ascoltiamo diversi brani presi da questo lavoro, che danno anche la caratterizzazione delle varie situazioni che riescono a proporre i due. E non c'è solo l'aspetto solistico, naturalmente c'è l'aspetto compositivo, che è estremamente interessante, perché è quella via di mezzo tra improvvisazione di jazz, anche mainstream, comunque tradizionale, ma con una capacità di intelligenza nello sviluppo, e poi anche appunto thank you. Questo era l'incontro tra Rainer Bass, chitarrista olandese, e il suo coetaneo più o meno, Ben van Gelder, che è appunto piuttosto giovani, l'incontro con la Metropole Orchestra, orchestra olandese storica, che hanno costruito questo progetto di buon livello musicale, una buona costruzione, appunto. Un disco uscito per la Basta, etichetta che francamente è la prima volta che sento. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, un'attenzione di oggi sull'Europa, e quindi direi che possiamo salutarci e alla prossima. Vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le indicazioni discografiche, le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujicola, sezione playlist. Salve a tutti, alla prossima. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salt peanuts.